Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Altra storia di calcio, ma altra storia che piacerà anche alle donne, perché abbiamo da raccontarvi le gesta di un personaggio veramente particolare, anche con la faccia più da attore che da attore del mondo del calcio. Quando si fa il calciatore bisogna essere pronti a spostarsi da un posto all'altro, avere sempre la valigia pronta, magari sei a Roma, poi sei a Udine, a Palermo, poi con i nuovi scenari adesso tu puoi giocare in Inghilterra, in Francia, magari proveniente dal Sud America, e poi magari finire la carriera in qualche esilio dorato negli Stati Uniti, a Dubai, oppure magari in Australia. Questo accade per i calciatori, ovviamente anche per gli allenatori, che oggi sono protagonisti del mercato quasi al pari di certi calciatori. Bene, oggi noi parliamo di un allenatore che non è stato spinto dal dio denaro, eppure ha girato veramente tutto il mondo. Ha girato il mondo solo per il gusto di accettare sfide impossibili. È un allenatore che è riuscito a ottenere risultati inaspettati e storici con delle squadre su cui nessuno avrebbe scommesso. È un uomo che ha insegnato al mondo che anche le squadre deboli, se ben motivate e ben organizzate, possono battere le grandi. Oggi vi raccontiamo la storia di Bora Milutinovic. Questo è un inno che non sentiremo mai più, perché questo è l'inno della Jugoslavia. Era una nazione, lo sapete, sotto la quale convivevano forzatamente serbi, croati, sloveni, bosniaci, un insieme di razze, di culture, di religioni tenute insieme dal disegno politico del maresciallo Tito. Nel campionato di calcio jugoslavo hanno giocato in anni diversi tre fratelli, Milorad, Miloš e Velibor, detto Bora, i fratelli Milutinovic. Bora è il più giovane dei tre, ha giocato 4 anni nel Partizan di Belgrado, poi decide di fare le valigie e di andare a giocare all'estero, cosa che negli anni 70 non è così ovvia come oggi. Va in Francia, a Monaco, poi a Nice, poi a Rouen, e nel 72 ha un incontro inaspettato, uno di quegli incontri che ti cambiano la vita. Stavo giocando un torneo con alcune squadre straniere. Si avvicinò un osservatore brasiliano e mi chiese se fossi interessato ad andare a giocare nel campionato messicano. Sembrava uno scherzo del destino, perché io avevo giocato là con il Partizan nel 64 in un torneo e mi ero letteralmente innamorato del Messico. Risposi subito di sì e nel 72 mi trasferii al Pumas. E così Bora Milutinovic si trasferisce a Città del Messico, ai Pumas, una delle squadre più importanti del campionato messicano. E poi c'è il sogno magari di avvicinarsi al Brasile, all'Argentina, quindi si parte per questa avventura. E sono 4 stagioni in cui il serbo si dimostra un buon giocatore, conquista la fiducia dei tifosi e trova anche l'amore, perché sposa una ragazza del posto. Insomma, a questo punto ci sarebbero tutte le premesse perché il Messico possa diventare casa stabile della famiglia Milutinovic. Alla fine del 76 la dirigenza mi disse che dovevo lasciare la squadra. C'era in programma l'acquisto di giocatori forti e dotati di tecnica e fantasia per rendere il Pumas una squadra divertente e spettacolare. Mi fu proposto di restare come vice allenatore e accettai subito. E questo è il primo colpo d'ala. Bora accetta, inizia come assistente, l'anno dopo diventa l'allenatore ufficiale dei Pumas. E nel 1981, a solo 37 anni, perché lui è del 44, vince il campionato Coppa dei Campioni della Federazione Nordamericana, la CONCACAF. Insomma, per lui si aprono le porte della nazionale. Nel 1986 il Messico organizza per la seconda volta dopo il 1970 i mondiali di calcio. Essendo il paese organizzatore non deve fare le partite di qualificazione, accede direttamente alla fase finale. In questa squadra ci sono parecchi giocatori interessanti e tra tutti Hugo Sanchez, ve lo ricorderete nel Real Madrid, ma lui arriva proprio dalla cantera del Pumas. Milutinovic presenta una squadra ben organizzata e il Messico passa il turno e poi batte la Bulgaria negli ottavi di finale. Cede solo davanti alla Germania che arriverà in finale e cede solo ai calci di rigore, insomma esce a testa alta davanti al suo pubblico. Noi avevamo molta fiducia e speravamo di poter dimostrare il nostro valore. Eravamo un gruppo unito e la nostra forza era l'entusiasmo. Quando abbiamo giocato contro la Germania, il miglior giocatore tedesco fu Schumacher, il portiere, e questo vuol dire che abbiamo dato parecchio filo da torcere a quella squadra. Ma Bora Milutinovic è un irrequieto. Dopo la fine del mondiale lascia la nazionale, fa delle esperienze in squadre di club. È il San Lorenzo in Argentina, viene anche in Italia per un breve periodo a Udine, però non riesce a ottenere grossi risultati. Poi, 3 mesi prima che inizi il campionato mondiale del 1990, Italia 90, lui riceve una telefonata. La federazione della Costa Rica lo chiama per guidare la nazionale che ha ottenuto la storica qualificazione. E per il nostro Bora Milutinovic è di nuovo tempo di fare le valigie. Il falco e il gabbiano. Nelle notti magiche di Italia 90 c'è una squadra, la Costa Rica, che viene considerata una di quelle squadre materasso, quelle sulle quali gioisci nel momento in cui ti capitano nel girone, e oltretutto è insieme alla Scozia, alla Svezia e al Brasile, e quindi tutti dicono sarà una di quelle squadre che magari non faranno neanche un punto. L'allenatore della squadra però è un certo Bora Milutinovic, protagonista della nostra puntata, chiamato pochi mesi prima quando la nazionale ha ottenuto la qualificazione. Però in Costa Rica temono che l'allenatore Marvin Rodriguez non abbia l'esperienza sufficiente per guidare la squadra in un mondiale e così chiamano lui. Nel marzo del 1990 venni a sapere da un amico che volevano affidarmi la panchina della Costa Rica. Io dissi, molto bene, vediamo cosa fa la squadra ai mondiali e poi incominciamo. Mi risposero che dovevo iniziare subito e che sarei stato io a portare al mondiale la Costa Rica. Io naturalmente fui entusiasta di questa proposta e partii immediatamente. Eh sì, la valigia di Bora è sempre pronta. Si apre un altro palcoscenico mondiale, si apre un'altra sfida impossibile. La nazionale della Costa Rica gioca 5 amichevoli premondiali, non ci sono giocatori di rilievo. L'11 giugno del 90 debutta a Genova contro la Scozia. Manejando Ramirez, Ramirez puede tocar hacia el lado derecho para Chavarría. Prefiere el arribo de Marchena. Marchena con el balón, tiene Chavarría. La juega individual, sigue Marchena. Para Callazo. Quarto minuto del secondo tempo, c'è un'azione travolgente dei Ticos, così vengono chiamati i giocatori della Costa Rica. È Callasso con un colpo di tacco degno di un fuoriclasse brasiliano infila la porta scozzese. Insomma, Milutinovic si presenta così al pubblico mondiale. Ha una squadra veloce che attacca, fa girare la palla, diverte, si diverte, batte la Scozia 1-0, perde col Brasile 1-0, ma gioca la partita decisiva a Genova ancora, 2-1 con la Svezia, secondo posto nella classifica del girone. Storico passaggio alla fase successiva. Appagati da questa impresa, i giocatori di Milutinovic perdono gli ottavi di finale 4-1 con la Cecoslovacchia, ma lui ha avuto veramente un suo secondo colpo d'ala perché ha portato la Costa Rica nelle 16 squadre migliori di un mondiale. Era una squadra giovane, molto solida, però era tutto improvvisato. Nessuno di loro aveva il passaporto. Io avevo comprato le scarpe per tutti e avevamo finito le magliette. Allora le chiesi a Boniperti, che mi regalò le magliette bianconere della Juventus. Nella partita con il Brasile a Torino, sugli spalti gridavano Juve, Juve. Beh, sembra una storia d'altri tempi con le magliette prestate, ma i giocatori della Costa Rica veramente compiono un'impresa della quale si ricorderanno per sempre nel loro paese. E poi squilla ancora il telefono di Bora Milutinovic, però questa volta la telefonata non è in spagnolo ma in inglese, perché a chiamare l'allenatore serbo questa volta è un paese che sta investendo molto sul calcio, ha avuto l'incarico di ospitare i mondiali del 94, vuole un grande allenatore bravo, disponibile a accettare una sfida impossibile. A chiamare questa volta è lo zio Sam, gli Stati Uniti. E negli Stati Uniti Bora Milutinovic trova il terreno adatto per lavorare, perché lì non c'è una lega professionistica, il calcio è veramente una scommessa. Si vedono le star di Hollywood che magari accantonano il baseball per tirare magari in modo goffo dei calci a un pallone, arrivano i primi film sul calcio, la pubblicità sul calcio, insomma la macchina della propaganda americana si mette in moto. La nazionale è già qualificata perché è il paese organizzatore, ma la squadra è tutta da costruire, bisogna arrivare a un livello tecnico accettabile perché non si può sfigurare. Iniziai a visitare tutti i college d'America cercando nuovi talenti. C'erano giocatori che avevano origini europee, messicane, c'era l'imbarazzo della scelta, ma il livello tecnico era basso. Prima del mondiale giocammo 34 amichevoli e la sfida più grande è stata creare un gruppo compatto che traesse forza dalle debolezze dei singoli. Il 17 giugno 94 il mondiale parte, i tedeschi battono 1-0 la Bolivia, la nazionale degli Stati Uniti debutta il giorno dopo a Detroit 1-1 con la Svizzera. Poi a Pasadena si consuma il dramma di cui abbiamo già parlato, il famoso autogol di Andrés Escobar, difensore della Colombia, l'autogol che costò la vita a Andrés Escobar. Ma noi questa volta stiamo raccontando la storia vista dall'altra parte e quindi dobbiamo celebrare il successo degli Stati Uniti che battono la Colombia e passano agli ottavi di finale. Bora Milutinovic ha raggiunto ancora una volta il suo obiettivo. Poi gli Stati Uniti verranno battuti dal Brasile, che peraltro poi diventa campione del mondo, e perdono 1-0, sconfitta onorevole contro quelli che vinceranno. E terminato il mondiale lui torna a casa in Messico per allenare di nuovo la nazionale, ma il telefono squilla un'altra volta per Bora, è di nuovo tempo di fare le valigie, però questa volta ci vogliono vestiti leggeri e occhiali da sole perché si va al caldo, si va in Africa. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Bora Milutinovic, l'allenatore serbo di nascita, classe 1944, messicano d'adozione, con il cuore dello zingaro giramondo. E siamo arrivati a raccontare tre mondiali nei quali lui è stato allenatore, allenando tre squadre diverse, il Messico, la Costa Rica e gli Stati Uniti. È sempre riuscito a superare il turno, sempre con squadre quantomeno di seconda fascia, ma direi anche di terza, con squadre che spesso erano andate ai mondiali con la prospettiva di non fare neanche un punto. Il segreto della sua forza è il gruppo, l'organizzazione di gioco, la velocità, la rapidità dei passaggi, l'autostima da costruire. Bora è uno che accetta le sfide. Il suo motto è: amo il football, ma ho sempre la valigia pronta. Mi chiamarono dalla Nigeria. La squadra aveva già partecipato al Mondiale del 94 ed era stata eliminata dall'Italia solo ai tempi supplementari. C'erano dei giocatori forti, ma il loro calcio era disorganizzato. Nwankwo Kanu, Babangida, Ikpeba, JJ Okocha sono solo alcune delle stelle del calcio nigeriano che Bora Milutinovic deve mettere in riga per il Mondiale del 98 in Francia. È un lavoro di rifinitura anche questa volta, perché lui prende in mano la squadra a dicembre del 97, quindi ha già la qualificazione in tasca, però deve gestire una squadra di individualisti che non sanno cosa vuol dire fare blocco comune per una causa comune, come spesso accade alle squadre africane. In più in Nigeria c'è una dittatura, insomma non è uno dei posti migliori del mondo per andare a lavorare. Lui comunque accetta ancora una volta la sfida e presenta i risultati al giugno 98. Battuta la Spagna, battuta la Bulgaria, la Nigeria è prima del girone, anche se perde col Paraguay che arriva secondo. Ancora una volta Bora ha centrato il suo obiettivo e si va agli ottavi di finale. La Nigeria è una squadra che è diventata ben organizzata, fa girare la palla, i giocatori hanno grande talento ma riescono a sacrificarsi per il gruppo, e questo è l'insegnamento più importante che esce dalle sessioni di allenamento di Milutinovic. Alla squadra mancava la mentalità giusta per affrontare la competizione. Ogni giocatore pensava soprattutto a fare bella figura per conquistare un posto in qualche club europeo. Io ero riuscito a convincerli a giocare per i loro tifosi, ma la cosa non durò a lungo. Ma il 28 giugno del 98 il giocattolo di Boran Milutinovic si scioglie come neve al sole davanti alla Danimarca di Laudrup. Forse i nigeriani tornano a sentire, insomma, il peso dei riflettori, dimenticano gli insegnamenti del loro allenatore, e così la Danimarca vince 4-1 e rimanda a casa la Nigeria. Per il serbo è l'ennesimo addio a un progetto che comunque lo ha visto ancora una volta vincitore, perché è il quarto colpo d'ala nel quarto mondiale consecutivo. Nel 99 c'è la transizione, lui va a allenare negli Stati Uniti, questa volta in una squadra di club, in New York Metro Stars, ma non è un'esperienza positiva. Evidentemente lui riesce a rendere al meglio solo con le nazionali. Quando la pressione è più alta, le responsabilità sono maggiori e lui si esalta. Comunque, a risolvere la cosa ci pensa ancora una volta il telefono, che all'inizio del 2000 squilla, e qui le cose si complicano, perché è vero, Milutinovic parla inglese, parla spagnolo, francese, italiano questa volta, però la chiamata arriva da un posto decisamente fuori mano, con una lingua non semplicissima da imparare e anche con un linguaggio calcistico tutto da costruire. È la Cina. La Cina non ha mai partecipato alla fase finale della Coppa del Mondo, quindi questa volta la sfida per Boran Milutinovic è resa ancora più difficile dal fatto che la cultura cinese è molto diversa da quella ispanica a cui lui è abituato. Lui ha sempre sostenuto che la prima cosa da fare quando si gioca a calcio è divertirsi, però i dirigenti politici cinesi non vedono di buon occhio questo modo di fare così poco professionale, secondo loro, poco autoritario da parte del nostro protagonista. Prima che iniziassi, tutte le aspettative erano legate al lavoro. C'era molto meno divertimento rispetto a tutti i posti in cui avevo allenato. Ma ho cercato fin da subito di trovare il giusto mix tra le usanze del popolo cinese e il mio modo di intendere la vita. I giocatori dovevano allenarsi duramente, ma volevo anche che si divertissero. E la stampa cinese non è per nulla lusinghiera, dopo che Milutinovic vince una sola delle 9 amichevoli organizzate con la nazionale cinese. Lui prova i giocatori, cambia formazioni, e tutto questo appare ai giornalisti cinesi come segno di mancanza di lucidità. In realtà lui ha uno scopo ben preciso in questo turnover, cioè vuole far giocare tutti i giocatori della rosa per far acquisire esperienza, per capire quali sono le potenzialità degli uomini che deve gestire, e poi piano piano lui, che è anche in cerca di popolarità, di simpatia, rilascia ai giornali una divertente intervista con una bella promessa. In un'intervista dichiarai che se la Cina non fosse riuscita a qualificarsi ai mondiali, mi sarei buttato giù dalla muraglia cinese. Beh, è una bella battuta, però i cinesi vogliono i risultati. Gli interessi in gioco sono molti, la Cina vuole guadagnare credibilità per poi poter presentare la candidatura per ospitare in futuro un campionato del mondo. Un miliardo di cinesi seguono con apprensione le qualificazioni della loro squadra. Ma con Milutinovic non si può rimanere delusi, e questa volta non c'è la qualificazione acquisita, bisogna andarsela a conquistare sul campo. Bene, la Cina inizia una cavalcata trionfale, vince tutte le partite di qualificazione, perde solo con l'Uzbekistan a qualificazione raggiunta. L'uomo dei miracoli ha colpito ancora. Quinto mondiale consecutivo con 5 squadre diverse, questa volta la qualificazione se la conquista e se la porta a casa lui. Sono felice, tutti sono felici. Ormai pensavo di essere abituato all'entusiasmo di un popolo quando la sua nazionale si qualifica per un mondiale. Però non avevo considerato che qui tutto è amplificato. In Costa Rica avevano esultato 3 milioni di persone. Qui invece tutto va moltiplicato per il 200%. E così Bora la sua passeggiata sulla muraglia cinese la fa veramente, ma non per buttarsi giù come aveva promesso in caso di sconfitta. Anzi, nella sua escursione lo accompagna un brasiliano che di calcio ne capisce, uno che senza mezzi termini definisce Bora Milutinovic uno degli allenatori più forti che ha conosciuto in tutta la sua carriera. E questo complimento lo fa un certo Pelé. Poi arrivano i mondiali di Corea e Giappone del 2002 e lì la partecipazione della Cina alla fase finale dei mondiali è piuttosto deludente. I mondiali di Corea e Giappone del 2002, perché perde con la Costa Rica, col Brasile, con la Turchia, torna a casa senza aver segnato un gol, ma i cinesi hanno comunque la soddisfazione di avere finalmente partecipato alla fase finale e di avere fatto un'ottima esperienza che servirà loro in futuro. Per Bora ovviamente è tempo di fare le valigie, questa volta si torna a casa in Messico e non ci sono progetti in cantiere. Lui lascia la Cina come un eroe, le parole di commiato del presidente della Federcalcio cinese sono queste: la Cina non dimenticherà mai quello che Mr. Milutinovic ha fatto per il calcio cinese. E Bora risponde alla cortesia con una dichiarazione molto utile allo stesso calcio cinese. L'appoggio che la squadra ha avuto dal popolo cinese è stato commovente. Questa nazione merita di più e spero che in futuro possa ancora partecipare ai mondiali o magari organizzarne uno. Ma Bora Milutinovic non ha nessuna intenzione di riporre in uno scaffale le sue valigie. Così tra il 2002 e il 2009 viaggia ancora e molto, allena l'Honduras, poi la Giamaica e infine l'Iraq. Tutti lo chiamano sperando che riesca a ripetere i miracoli degli anni precedenti, però questa volta non si riesce a centrare la qualificazione alla fase finale dei mondiali. E oggi lui vive in Qatar con la moglie, fa la spola con il Messico dove vivono i figli, i nipoti, si diverte a fare il nonno, alterna questo suo nuovo lavoro con quello del commentatore sportivo. Tutti lo cercano soprattutto in occasione dei mondiali perché hanno voglia di sapere i suoi pareri, i pareri sulle squadre più deboli, quelle di margine, quelle su cui non scommette nessuno a parte l'allenatore, quelle che a lui piacevano così tanto. E lui che ha girato il mondo, che ha portato le sue idee in 3 continenti diversi, accontenta ancora tutti col suo volto sempre sorridente, si dimostra ancora entusiasta, frequenta un mondo del calcio che negli anni è cambiato ma che per lui rimane sempre il gioco in cui bisogna prima di tutto divertirsi. È bello quando nella vita riesci a dare dei colpi d'ala sempre più difficili e sempre in luoghi diversi. Il nostro zingaro di lusso è andato a insegnare la sua filosofia del calcio veramente da tutte le parti del mondo e quindi noi ringraziamo Bora Milutinovic per aver diffuso una filosofia calcistica anche in luoghi nei quali il calcio era poco praticato o comunque non praticato al vertice. Sono storie di vite straordinarie quelle che abbiamo deciso di raccontarvi ogni giorno. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoelgabiano@radio24.it se conoscete storie che meritano di essere raccontate. Oppure seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24 oppure sui vari social, Facebook, Twitter. Insomma, lo sapete, se mi cercate, mi trovate. Ciao, a lunedì.